Abbiamo chiamato questo presidio davanti al comune a una conferenza stampa proprio per denunciare il grave problema di democrazia che attraversa questa città. Infatti, nonostante non ci sia evidentemente nessun tipo di ragione sanitaria, le manifestazioni in centro storico continuano a essere vietate fino al 31 di gennaio. Adesso il prefetto e il sindaco proprio oggi stanno discutendo per prorogare questo tipo di ordinanza. Un tipo di ordinanza che noi pensiamo sia assolutamente appunto antidemocratica, perché di fatto mentre tutta la produzione continua ad andare avanti sul piano sanitario e la gestione pandemica e si continua a verificare insomma una gestione disastrosa che mette davanti solamente gli interessi del profitto a discapito della collettività, non è permesso nemmeno protestare contro questo tipo di situazione. Infatti proprio venerdì scorso è stato vietato un presidio statico al sindacato USB in merito allo sciopero della sanità, e per questa ragione proprio oggi abbiamo chiamato questo presidio per denunciare questa situazione e verso l'assemblea che abbiamo chiamato il 3 di febbraio sulla questione appunto della democrazia nella città più progressista d'Italia. È evidente che questa amministrazione comunale non ha nessun tipo di interesse a ascoltare quelle che sono le voci di dissenso di questa città e le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici. Pensiamo proprio oggi, prima di venire al presidio, da ieri mattina che è davanti al parcheggio comunale Tanari, in cui sono stati licenziati 4 lavoratori a seguito del cambio appalto, e l'amministrazione comunale tace anche in questa situazione. Quindi oltre a portare la nostra solidarietà attiva ai lavoratori che sono stati licenziati, al presidio e al blocco del parcheggio che continua, siamo qui anche per questo, visto che è evidente che questa amministrazione, sindaco Lepore in primis, parla di città più progressista d'Italia, ma in realtà sbatte la porta in faccia alle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici. L'ordinanza di Bologna in realtà si fonda su una direttiva nazionale che era stata adottata prima di Natale, e la ministra Lamorgese aveva giustificato appunto questo provvedimento con una sorta di diritto allo shopping, quindi insomma che verrebbe prima del diritto a manifestare il dissenso. Sì, ricordiamo intanto che Bologna è stata la prima città che orgogliosamente ha adottato questo tipo di provvedimento e appunto sotto le vacanze di Natale si è reso in modo molto chiaro quali sono gli interessi da tutelare, appunto quelli dello shopping e quelli del profitto, e non invece quelli del dissenso e del diritto a protestare, a manifestare in una condizione che, ricordiamo, dopo 2 anni di pandemia sembra di rivivere un loop, perché appunto mentre contemporaneamente si cerca di tutelare gli interessi delle imprese, i lavoratori continuano ad andare a lavoro in mezzi sovraffollati, la gestione delle scuole vediamo che è una gestione nel caos, viene garantita solamente la produzione a discapito invece della salute dei cittadini e delle cittadine. Questa politica di convivenza con il virus trova tutta la sua ferocia proprio appunto nel paradosso per cui se contemporaneamente si può morire di Covid, morire di lavoro e la situazione anche dal punto di vista delle disuguaglianze sociali continua a essere sempre più drammatica, contemporaneamente non è nemmeno permesso esprimere una voce di dissenso. E quindi dietro la patina di questa amministrazione in realtà si rivela uno schema e un'idea di città e di società molto molto precisa, che appunto nulla a che fare con il volto della città più progressista d'Italia, nulla a che fare con la salute e i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, dei precari, di tutti quelli che abitano questa città. Ti faccio un'ultima domanda, prendendo spunto anche da alcune parole che hai detto, perché abbiamo visto anche in altre città negli ultimi giorni anche degli studenti essere manganellati perché manifestavano dopo la morte di Lorenzo, un ragazzo di 18 anni, durante l'alternanza scuola-lavoro. A Bologna viene rinnovata questa ordinanza, come dire, si è colta l'occasione della pandemia per una stretta repressiva? Sembra assolutamente di sì. Infatti le cariche ai danni degli studenti e delle studentesse che protestavano per l'omicidio, perché di questo si tratta, di Lorenzo, un ragazzo che non doveva essere a lavoro in quel momento e che protestavano per l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, rappresentano davvero il vero volto di questo governo, del governo Draghi, di cui l'Epore si fa assolutamente portavoce. Anche a Bologna, tra l'altro, ricordiamo che ci sono state delle proteste importanti da parte degli studenti e delle studentesse che hanno anche occupato delle scuole, che sono stati subito minacciati e di sgombero, che hanno resistito grazie alla loro determinazione. Però appunto ancora una volta si conferma il fatto che si parla tanto, si riempiono tanto la bocca la parola dei giovani, del futuro, delle nuove generazioni, invece alle nuove generazioni stanno regalando un presente di miseria e un futuro ancora peggiore, con tra l'altro appunto l'aggravante dell'indottrinamento rispetto al fatto che la scuola sembra avere oggi l'unica funzione di addomesticare e preparare i giovani a un futuro di sfruttamento, mentre invece per fortuna una, ci sono studenti e studentesse che in tutta Italia stanno ribellando a tutto questo, stanno mettendo in campo un'opposizione a questa idea di scuola per un mondo di, per un'idea scuola di società differente.